Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio, l'ultima puntata in diretta dell'anno. Molti di voi magari saranno anche contenti, a qualcuno mancheremo, speriamo che questi siano la maggioranza dei nostri ascoltatori. Ultimissime battute anche per la borsa, oggi l'ultima giornata di contrattazioni in Europa e insomma oggi ci lasciamo alle spalle il 2009, forse per qualcuno con molto sollievo, per qualcun altro forse con qualche ferita addosso o con qualche ferita nel proprio portafoglio. Allora, c'è la convinzione abbastanza diffusa che il peggio sia alle spalle, che l'economia con grande fatica stia ricominciando a risalire la china, ma la ripresa, dicono tutti, sarà fragile, probabilmente dovrà essere accompagnata ancora da politiche di sostegno importanti. E però, a giudicare da quello che è successo quest'anno sul mercato azionario, visto che ci hanno insegnato che in genere questo anticipa le tendenze dell'economia reale, allora il 2010 potrebbe essere l'anno delle sorprese in termini positivi, perché insomma le borse, lo sapete, poi ve lo racconteremo tra poco nella nostra scheda, sono cresciute tantissimo. Qualche listino, forse quelli più prudenti, hanno fatto più 40, più 50%, ma qualcuno addirittura ha raddoppiato il proprio valore. Alcuni listini, l'Argentina più 110%, qualcosa di incredibile. Allora, forse non lo faremo proprio oggi perché è il 30 dicembre, magari queste ultime due giornate dell'anno preferiremo passarle magari o sulle piste da sci o in tranquillità con la famiglia o gli amici, ma magari è il caso di fare un po' anche l'estratto conto dei nostri investimenti, come sono andati i nostri portafogli alla luce anche delle prospettive che possiamo indicare per l'avvio del nuovo anno. A questo tema dedicheremo questa puntata, ma ci dedicheremo anche la puntata del ritorno di Salva Danaio di gennaio, il 4 gennaio. Quali sono i settori al centro delle preferenze dei gestori, di chi decide le strategie delle case di investimento? Come sarà orientata e organizzata la selezione delle aree su cui puntare nel 2010? Perché in molti dicono anche che la parola d'ordine per il 2010, molto più rigorosamente degli anni passati, sarà selezione molto attenta, molto accurata delle società, delle aree sulle quali puntare. Noi tutto questo stamattina lo commenteremo, intanto grazie alla vostra collaborazione all'800240024, con Andrea Conti, responsabile strategia di Eurizon Capital SGR. Dottor Conti, benvenuto a Salva Danaio. Grazie e buona giornata a tutti. Mentre abbiamo in collegamento telefonico Armando Carcaterra, direttore investimenti, ancora per due giorni di BPM Gestioni, fra poche ore invece di Anima SGR, perché le due società si sono integrate. Carcaterra, buongiorno. Buongiorno a voi. E buon anno, naturalmente poi per gli auguri di buon anno ci risentiremo al termine di Salva Danaio fra 45 minuti. Allora, vi ho ricordato il numero verde per intervenire, per esprimere le vostre considerazioni, tra l'altro molte ne avete fatte anche nella puntata di ieri, che in qualche maniera abbiamo riorientato su questo tema, anche se poi i fatti finanziari dell'anno ieri li abbiamo commentati con due analizzati, ricordati con due giornalisti. Oggi invece andiamo proprio all'analisi di chi si occupa di mercato dalla mattina alla sera, e quindi se volete riproporci quelle considerazioni che ieri non siamo riusciti a farvi esprimere per ragione di tempo, sicuramente potete avere oggi di nuovo questa opportunità. Chi non vuole chiamare ha l'opportunità di scriverci al 349-238-6666. Allora, come si sta chiudendo l'anno per le borse europee? L'Europa ha avuto sei giornate consecutive di rialzo, quindi in sostanza questo rally autunnale si è rafforzato e consolidato in quest'ultimo frangente del 2009. Dicembre è stato molto positivo per il mercato azionario, ma insomma il freno doveva pur arrivare. Oggi qualche gestore, qualche investitore per andare in vacanza tranquillo a Capodanno in cassa, e quindi oggi indici europei in ribasso. È Francoforte a guidare i cali con una flessione di un punto percentuale, abbiamo Parigi che scende dello 0,7%, abbiamo Londra che scende dello 0,37% e Milano meno 0,7%. Peraltro vedo che si va via via allungando la lista dei titoli con il segno meno a Piazza Affari, anzi si è proprio infittita quella dei titoli con il segno più. Abbiamo solo la ex Autostrade in rialzo dello 0,7%, qua la notizia l'avete vista in quasi tutte le prime pagine dei giornali. Abbiamo la comunicazione dal 1 gennaio 2010 dell'entrata in vigore degli adeguamenti tariffari sulla rete delle concessionarie italiane del gruppo, per cui aumenti in vista per chi viaggia molto in autostrada, e naturalmente il titolo non ne poteva che beneficiare. fare questa mattina. Prismian più 008, Snam Rete Gas più 007, qui abbiamo esaurito la lista dei titoli con il segno più. I cali più forti sono 2 punti di ribasso per il Banco Popolare, per Geox, meno 1,80 per Bulgari, oggi scende quasi tutto il settore bancario, Intesa meno 1,49. Mediobanca meno 1,31, abbiamo un calo di Mediaset dell'1,38%, Tenaris meno 1,26, abbiamo un gruppo molto ampio di titoli che perde un punto percentuale, ci sono fra questi generali Impregilo, la Popolare di Milano, A2A, Mediolanum, Ansaldo e Buzzi Unicem. Euro su dollaro 1,43,46, il petrolio è sui $79 al barile, questo è il quadro per quello che riguarda la borsa oggi, ma noi ritorniamo a raccontarvi quello che è accaduto in borsa negli ultimi 12 mesi. L'anno che sta per chiudersi sarà ricordato a lungo soprattutto per una data, il 9 marzo, giorno in cui le principali borse mondiali hanno toccato i minimi dall'inizio della crisi finanziaria. Da quel giorno in poi, in un susseguirsi di notizie più o meno positive, le borse hanno infatti imboccato la strada del rialzo, per molti osservatori non del tutto giustificato. Un rally che, a parte qualche interruzione, è proseguito fino ad oggi, si è notevolmente rafforzato in questo mese di dicembre e ha consentito ai mercati finanziari di archiviare l'anno con il segno più che positivo. Il podio spetta alla piazza di Mosca, che negli ultimi 12 mesi ha registrato un progresso del 120%, più 110 dai minimi di marzo. Ma numerose altre piazze hanno messo a segno rialzi a 3 cifre dai picchi minimi della scorsa primavera. Bombay più 112%, l'Argentina più 111% e anche Bucarest e Budapest hanno più che raddoppiato il loro valore. E i listini più familiari? I 3 indici americani hanno in media recuperato tra il 70 e l'80%, Tokyo oltre il 50%, i principali indici europei sono rimbalzati del 50%, 60% e anche 70%. E tra questi spicca Piazza Affari, il cui paniere più importante, il FTSE MIB, ha segnato un rialzo dell'85%. I numeri, dunque, ricordano come le emozioni finanziarie non siano mancate. Il tutto in uno scenario in cui la volatilità, non bisogna dimenticarlo, ha fatto da padrona, in particolare all'inizio dell'anno, in concomitanza della crisi di Dubai. Cosa aspettarsi dunque dal nuovo anno? Gli esperti sostengono che sarà migliore di quello che sta per concludersi e che le borse hanno anticipato buone notizie. Ma se da un lato l'ottimismo sembra prevalere, le incognite che caratterizzano la crisi economica e finanziaria più grande dal 1929 restano ancora più numerose delle certezze. Insomma, abbiamo focalizzato la nostra scheda prevalentemente sulla borsa, ma naturalmente con i nostri ospiti parleremo anche di mercato obbligazionario, cercando di tornare anche ad approfondire quel tema che abbiamo sollevato ieri, che sarà forse un grandissimo tema di dibattito l'anno prossimo, cioè la necessità per molti governi di andare prepotentemente sul mercato con molte emissioni obbligazionarie, perché come sapete, insomma, con le grandi politiche di sostegno all'economia che sono state condotte quest'anno, gli stati devono un po' ripianare i propri bilanci. Comunque, insomma, di temi ce ne sono tanti questa mattina. Allora, da che cosa cominciamo? Il tema che vorremmo così proporre ai nostri ospiti è come avere una guida, un faro sui mercati quest'anno per orientare al meglio le nostre scelte di investimento. Dopo aver quantificato bene, questa è una regola che non ci dobbiamo mai dimenticare, la nostra propensione al risparmio e al rischio. E allora sentiamo intanto quanto credono alla ripresa i nostri ospiti questa mattina. Andrea Conti, comincio con lei perché non è mai venuta a Salvadanaio, per cui le lascio inaugurare la nostra trasmissione. Abbiamo avuto un anno di record per molte borse, per le materie prime, per tante di quelle che si definiscono asset class, ma tutto questo andamento in certi momenti è anche abbastanza e forse euforico. Lascia davvero intravedere un 2010 che sarà per la ripresa più sorprendente del previsto? Insomma, quali sono subito su questo le vostre previsioni? Sì, il paradosso è che il 2009 sicuramente sarà ricordato come un anno di crisi, di grave crisi economica, ancora fortemente percepita, però effettivamente di questa crisi non c'è quasi più traccia sui mercati. I mercati guardano 6 se non 12 mesi in avanti, quindi i mercati chiaramente hanno scommesso sul fatto che il 2010 sarà un anno di ripresa, però attenzione, i mercati sono lo specchio dell'economia globale, quindi i mercati scommettono su una ripresa che sarà globale, ripresa che peraltro in alcune parti del mondo c'è già. Noi siamo, non per demerito, ma siamo in questa fase l'ultimo, diciamo, vagone di questo treno della ripresa, no? Noi però come italiani, noi come, noi come Italia, come Europa, ma non è una questione di merito, è proprio una fotografia, cioè questa è una ripresa che in questo momento c'è già nei paesi emergenti, un dato che i paesi emergenti oggi contano per il 50% dell'economia del mondo, quindi di questo PIL mondiale, di questo fatturato del mondo, il 50% viene fatto. Quindi diciamo dai per paesi fortuna emergenti. Che in questo momento ci sono loro e che per il prossimo anno ci saranno loro. Per loro, per il prossimo anno, ad esempio, per la crescita dell'economia, quindi per la crescita del volume del fatturato del mondo, i paesi emergenti l'anno prossimo conteranno circa per il 70% della nuova crescita. Quindi diciamo che è un treno di crescita che è guidato dai paesi emergenti, seguito dall'America, seguito dall'Europa. Quindi magari per noi come Europa è più difficile percepire già una ripresa, che però i mercati invece hanno già percepito, perché a livello globale questa ripresa di fatto già c'è. Il 2010 potrebbe essere l'anno, dovrebbe essere l'anno in cui questa ripresa si consolida, non sarà probabilmente particolarmente vivace per quelli che io dicevo sono i vagoni più indietro, quindi l'America, l'Europa, però il 2010 potrebbe essere un anno per l'economia reale migliore di quanto non sia stato il 2009. Quali sorprese potrebbero frenare questa prospettiva, secondo lei? Perché insomma c'è qualcuno che dice ancora, attenzione perché c'è qualche banca che potrebbe ancora fallire, non è detto che questa, come dire, la convinzione del too big to fail, il famoso detto è troppo grande per fallire, che non si possa ripresentare nel mercato l'anno prossimo. I governi hanno detto tutti quanti, qualora questa prospettiva si dovesse individuare all'orizzonte, faremo di tutto per non farla accadere. Però insomma, quale sorpresa veramente dirompente potrebbe, come dire, rendere negativo lo scenario che lei ci ha indicato fino adesso? C'è qualche preoccupazione che comunque tra di voi serpeggia? Beh, le preoccupazioni che dicevo, che ci siano ancora problemi di debito irrisolto in giro, questo è un caso che, anche ad esempio il caso della Grecia che è scoppiato un mese e mezzo fa, ci dice che ci sono ancora quelli che possiamo chiamare degli anelli deboli della catena, che ci sono, che verranno al pettine questi nodi più avanti, però probabilmente questi non sono più da considerarsi come i colpi di coda della crisi da cui stiamo uscendo, piuttosto che non una riedizione della crisi. Gli indicatori economici in generale ci dicono che c'è un miglioramento, quindi questi colpi di coda avvengono in questo momento con indicatori macroeconomici in miglioramento, non in peggioramento come erano un anno e mezzo fa, quindi diciamo possono essere assorbiti dall'economia globale, non dovrebbero farla deragliare. La sorpresa negativa potrebbe essere più, dal mio punto di vista, dato da un errore di politica, no? Prima nella scheda si faceva riferimento agli incentivi di politica monetaria e fiscali che sono stati dati soprattutto in America e in Europa per rilanciare l'economia. Ecco, il vero errore potrebbe essere quello di rimuovere questi stimoli troppo presto. Quindi questo potrebbe essere un pericolo. Tuttavia sia le banche centrali sia i governi sembrano molto coscienti di questo rischio, quindi probabilmente preferiranno eccedere nell'espansione, quindi mantenere questi stimoli per un periodo più prolungato piuttosto che rischiare un ritorno di recessione. E comunque quanto più i rischi a cui faceva riferimento lei, debito di emittenti o di paesi, quanto più questo rischio ci sarà, tanto più governi e banche centrali manterranno questi stimoli di natura economica e monetaria per un periodo molto prolungato. Quindi 2010 sarà un bilanciamento tra una crescita globale che si rilancia e di cui anche Stati Uniti ed Europa dovranno beneficiare, e ancora i colpi di coda della crisi da cui stiamo uscendo. Armando Carcaterra, condivide anche lei l'analisi sui cosiddetti colpi di coda che però non turberanno più di tanto il mercato, la crescita economica? Ma io le vorrei anche chiedere, perché questo è un aspetto che a me ha colpito molto, soprattutto negli ultimi mesi, perché di questi fatti soprattutto negli ultimi mesi ci siamo occupati. Qualcuno li definisce ancora dei campanelli d'allarme che stanno suonando e che non bisogna trascurare. Dubai e, per quello che riguarda l'Eurozona, la Grecia non hanno turbato per niente questi campanelli d'allarme il mercato, anzi l'Europa è stata più turbata da quanto stava accadendo a Dubai, ma è stato un turbamento isolato in un paio di giorni, rispetto a quanto non sia accaduto in Grecia. Questi segnali devono indurci a qualche riflessione in particolare, o comunque devono darci, appunto, rafforzarci la convinzione che il 2010 sarà un anno migliore di quanto siamo, come dire, incoraggiati a prevedere in questo momento, insomma, visto che comunque ancora siamo tutti molto prudenti e facciamo fatica ad ammettere questa prospettiva così positiva. Ma sì, diciamo, i campanelli d'allarme vanno sempre tenuti in considerazione. e diciamo Dubai piuttosto che la Grecia, forse la Grecia più in particolare, appunto ci ricordano, come già detto, una possibile fonte di pericolo nei cosiddetti rischi sovrani, visto che appunto diciamo, la caratteristica, diciamo, non proprio confortante di questa fase di ripresa è stata appunto l'esplosione del debito pubblico in tanti paesi. Ricordiamo, solo per fare un esempio, che appunto paesi come l'America o l'Inghilterra si avviano ad avere dei deficit e dei livelli di debito pubblico sul GDP simili a quelli italiani o quasi, quindi diciamo un cambiamento di prospettiva importante e soprattutto rapidissimo. E quindi qui poi ci ricolleghiamo da un lato al rischio sovrano in assoluto, che potrebbe pesare sull'andamento dei tassi di interesse, e poi diciamo ci ricolleghiamo anche alla questione delle cosiddette exit strategies, no? Perché appunto dato che l'aumento del debito fortissimo che c'è stato e la velocità con cui sta aumentando non rappresentano evidentemente un percorso sostenibile per lungo tempo, c'è da domandarsi appunto poi che succede e come appunto si esce da questa situazione, si frena, diciamo, questa spirale di indebitamento pubblico che ha preso questa enorme velocità al momento. Da questo punto di vista, come al solito, guardando le cose secondo la prospettiva dei mercati, il punto fondamentale sarebbe sempre quello di avere la chiarezza, cioè i mercati temono come la peste l'incertezza e quindi anche da questo punto di vista sarebbe meglio che i governi iniziassero a fare dei piani chiari su come intendono, no, rientrare da questa situazione, che non sono piani che devono riguardare naturalmente i prossimi 2 mesi o 3 mesi, perché sono situazioni che richiedono tempi ben più lunghi, però sarebbe importante avere dei paletti, diciamo dei punti di riferimento dal punto di vista dei mercati, per capire come sarà un po' l'evoluzione. Cioè le cose anche non belle è meglio dirle subito. Esattamente, piuttosto che, infatti, lasciare l'incertezza. Diciamo che a quanto pare il mercato si accontenta al momento del fatto che i governi abbiano deciso di non rientrare dalle politiche di sostegno almeno da qui ai prossimi 6 mesi, e su questo ha viaggiato parecchio anche in quest'anno. Allora noi ci dobbiamo fermare perché abbiamo una piccolissima pausa, ci sono già degli ascoltatori pronti ad intervenire e io continuo a ricordarvi che potete farlo all'800 24 00 24. A tra pochissimo. Salva Danaio. Stavo commentando con Andrea Conti la natura così un po' dei messaggi che stanno arrivando da parte di molti ascoltatori. Insomma, ho capito che stiamo completamente fallendo la nostra missione. Più portiamo avanti il concetto della diversificazione degli investimenti, più gli ascoltatori ci fanno il nome di un titolo e chiedono se bisogna puntare su quello. Noi non vi potremo mai dare, io mi riferisco a quelli che ci scrivono, di una società piuttosto che di un'altra, non vi possiamo dare indicazioni di questo genere, anche per le cose che ho spiegato ieri a Salvadanaio e per i codici a cui siamo sottoposti noi giornalisti, per i controlli legali, perché ci sono dei reati se diamo indicazioni, suggerimenti, e soprattutto Andrea Conti, perché non lo sappiamo, magari avessimo tutti quanti la sfera di cristallo, noi non saremmo qua in una bella spiaggia delle Maldive a goderci magari il bel tempo, anzi se là ci sono dei colleghi mi sembra che stia anche piovendo. Allora andiamo un po' a qualche domanda di qualche ascoltatore in termini un po' più generali. Cominciamo con Sandro da Pavia, che è stato il primo ad essersi prenotato questa mattina, che saluto. Sandro, benvenuto a Salvadanaio. Buongiorno e grazie. Grazie a lei. E complimenti per la sua trasmissione, l'aspettiamo in diretta 4-4. Sì, sì, guardi, 2-3 giorni di stop giusto per respirare un attimo. No, ma l'hai porto a continuare. Grazie. Su questa linea. Dunque, io volevo chiederle come sarà l'inflazione nel 2010? Uh-huh. E visto che i tassi a breve probabilmente saranno bassi, è preferibile puntare sui BTP indicizzati all'inflazione o comprare CCT? Sandro, questa è una domanda, anche lì non è che possiamo dare suggerimenti di acquisto spregiudicati, possiamo chiedere ai nostri interlocutori di questa mattina che tipo di prospettive hanno analizzato i loro uffici studi a proposito dell'inflazione, ovviamente dei tassi di interesse, e capire magari se all'interno della loro casa di investimento, come dire, sottoscrivono anche obbligazioni obbligazioni indicizzate ad inflazione e per quale motivo. Quindi poi vediamo se questa ricetta può andar bene anche per lei. Conti, riprendo da lei, l'inflazione è abbastanza, direi, sotto controllo, proprio ai minimi. Lo scenario dei prossimi 18-24 mesi sarà, credo, di un ritorno alla crescita dei prezzi, perché comunque anche quella, anche se qualcuno non va giù, questa indicazione è un buon segnale di miglioramento dell'economia. Questa è una cosa che non ci dobbiamo mai dimenticare. Bisognerà prendere in considerazione, secondo lei, in modo più significativo del passato, la prospettiva di incrementare nel proprio portafoglio la quota di obbligazioni che in inglese si chiamano, con questo brutto termine, inflation linked, ma comunque indicizzate proprio ai prezzi? Allora, innanzitutto il fatto che si parli di inflazione effettivamente è un segnale positivo, nel senso che comunque qualcuno che crede alla ripresa economica c'è, perché inflazione ci può essere solo se ci sarà ripresa, punto uno. Punto due, nel 2010 non ci sarà una grossa inflazione, proprio perché la domanda economica in generale, soprattutto in Europa, anche se sarà in miglioramento, rimarrà abbastanza modesta, quindi un grosso shock, una grossa esplosione dell'inflazione non ci sarà. A meno che la ripresa delle economie emergenti non riporti a crescere in maniera vistosa il petrolio, però insomma... Sì, questo è il vero, petrolio però a 150 dollari non dovremmo vederlo a breve, almeno speriamo. No, per motivi diversi. In questi, diciamo, i paesi emergenti in questa crisi hanno fatto forti incette di scorte di petrolio in maniera molto, molto oculata. E anche di altre materie prime. E di altre materie prime, quindi questo... Dovrebbe un po' calmierare i prezzi dell'energia. Però per quanto riguarda gli investimenti, allora la verità è che i titoli legati all'inflazione hanno già fatto molto molto bene quest'anno, quindi, come si dice, il mercato come al solito guarda in avanti. All'inizio di quest'anno i titoli legati all'inflazione erano veramente a prezzi molto bassi, quindi in generale sono stati molto comperati, hanno reso molto bene quest'anno. Adesso diciamo che sono più da vedersi come un'assicurazione, no? Verso un futuro periodo di inflazione, però che non riguarda il 2010, può riguardare più una protezione dell'inflazione veramente nel lungo periodo, però sono più, io li vedo più in questo momento come un'assicurazione contro un rischio di iperinflazione o di forte inflazione nel corso dei prossimi 5-10 anni, piuttosto che non come un investimento che possa dare un ritorno diretto nell'immediato. Quindi ha senso. Quindi il tema me è capire intanto quanto dobbiamo immobilizzare il nostro investimento. Sì, secondo sì, però siccome ad esempio l'ascoltatore parlava del 2010, secondo me sul 2010 il potenzialità di apprezzamento dei titoli legati all'inflazione probabilmente si è esaurito. In questo momento l'inflazione, la domanda è tecnica, è anche difficile da spiegare via radio, però diciamo che l'inflazione futura che si compra in questo momento è già un'inflazione più alta di quella che avremo nel 2010. Quindi secondo me, diciamo, è un po' passato, diciamo, l'appeal puramente speculativo di questi titoli. Può valer la pena avere una dose del proprio portafoglio in questi titoli, però con un orizzonte più di lungo periodo, quindi più di protezione nell'inflazione nei prossimi 5-10 anni, piuttosto che non, quindi dietro 5-10 anni, non 18-24 mesi come ho detto 2010. Io Armando Carcaterra, mi piacerebbe sentire anche la sua di considerazione su questo argomento, tenuto conto che lo abbiamo già definito mille volte quello che stiamo chiudendo, l'anno dei record, e probabilmente il 2010 sarà l'anno di un altro record, quello delle emissioni di obbligazioni governative che pioveranno sul mercato, titoli di Stato appunto da parte dei governi che dovranno progressivamente cominciare a rientrare dai debiti pubblici. E quindi, insomma, in rapporto all'inflazione come la vede, visto che questo è un tema che interessa molti ascoltatori? Ma sì, diciamo, concordo sul fatto che l'inflazione non sia un problema a breve termine. Io mi domando anche se nel lungo termine, in particolare per l'Europa, abbia senso parlare di inflazione, nel senso che a me sembra che in Europa il livello dei prezzi sia particolarmente elevato, cioè, non so, guardando alle parità di poteri d'acquisto, senza fare discorsi complicati, però sappiamo che incide anche il cambio, per esempio col dollaro, quindi sappiamo che in America le cose costano molto di meno perché l'euro si è rafforzato, ma anche oltre l'apprezzamento dell'euro, secondo me c'è un differenziale strutturale del livello dei prezzi nell'area euro rispetto anche solo all'America, cioè un altro paese evidentemente super sviluppato, che secondo me è poco giustificabile anche viste, diciamo, le basse capacità di crescita appunto strutturale dell'area euro. Io mi domando perché un'automobile debba costare il 100% in più in Europa nell'area euro rispetto all'America, se questo abbia un senso. Quindi tutta questa serie di discorsi mi e di semplici, diciamo, riferimenti empirici mi fa diciamo, pensare che anche nel lungo termine, diciamo, il rischio maggiore per l'Europa sia quello della deflazione piuttosto che dell'inflazione, se proprio dobbiamo fare un, diciamo così, un discorso molto ancorato lungo termine. Al tema dei prezzi. Non so come appunto l'Europa possa, diciamo, sperare di crescere o di aumentare il proprio potenziale di crescita se non si aggiustano tante cose un po' strutturali, tra cui anche il livello dei prezzi. Questo quindi in sostanza per tradurre dal livello del cambio che è molto per tradurre forte. In concretezza per i nostri ascoltatori, diciamo, ha poco senso come dire incrementare la quota del proprio portafoglio di investimento in titoli obbligazionari legati all'inflazione. Sì, su questo sono d'accordo, anche come si diceva prima, soprattutto poi nel breve termine non vedo particolare valore sul benissimo. Allora, ovviamente Alessandro Longoni che mi segnala le telefonate, mi indica Gianni da Varese come il nostro mitico Gianni. Gianni, buongiorno, un fedelissimo ascoltatore soprattutto di queste trasmissioni. Noi ovviamente ogni volta ne approfittiamo di lui e delle sue domande che sono sempre piuttosto interessanti. Gianni, buongiorno. Buongiorno signorina, complimenti per la trasmissione ed auguri a tutti voi. Anche a lei Gianni, ci dica tutto. Allora, come premessa volevo allacciarmi anch'io al discorso qui del debito pubblico degli stati sovrani e della perdita della AAA da parte ad esempio degli Stati Uniti, come sostiene il signor Rioffi oggi sul Sole 24 ore. Vabbè, qua dovremmo fare tutta una trasmissione sui rating e sulla perdita della sovranità dei rating più che altro. Questa è una grossa preoccupazione per tutti i risparmiatori. Adotteremo qualche altra pagella. Però volevo dire, per un piccolo risparmiatore di lungo periodo, io vedrei, e vorrei avere la conferma dagli esperti, vedrei bene le società pubblico utility, di pubblica utilità, tipo una Snam, una Terna o le società autostrade, le società autostradali che sono dei monopoli di fatto, cioè danno un bel dividendo. Monopoli naturali. Secondo me, cioè un investimento tranquillo, tutti lo usano, li usano questi servizi, e poi vedo bene anche i paesi emergenti, in modo particolare Sud America e il Brasile. Ecco, volevo sapere anche il parere degli esperti. Grazie Gianni. Allora, due domande molto diverse. Grazie mille. Allora, scindo in due la domanda, Conti, comincio con lei sulle aree emergenti. Il Brasile ha corso tanto quest'anno, con la grande soddisfazione di Lula, persino anche il mondo industriale italiano si è fatto un bel giro in quelle aree per vedere quali opportunità di investimento potrebbero avere le nostre aziende. Peraltro, stavo guardando una torta sugli emergenti da preferire pubblicata da un giornale in questi giorni, da Borsa e Finanza, e ho visto che praticamente i gestori interpellati preferiscono quest'area per il 27%, l'area ancora privilegiata rimane la Cina, c'è poi l'India e c'è questa new entry che è la Corea, che ha preso il posto della Russia nel vecchio BRIC. Adesso abbiamo coniato un nuovo acronimo per descrivere le aree come dire emergenti, ma che sono già abbastanza emerse direi, ed è il BIC, perché al posto della Russia c'è appunto la Corea. Tra le aree emergenti, se ancora possiamo definirle così, Conti, quale c'è tra le sue? Sì, le aree emergenti sì, sono quelle che sono stati citati, quindi i paesi che sono stati citati sono quelli che più di tutti guidano. Poi già io prima, nella prima parte, dicevo come i paesi emergenti siano in questo momento la locomotiva a livello di crescita, quindi chiaramente è giusto tenerli sotto controllo e tenerli in considerazione. In un anno come il 2010, che abbiamo definito come di potenziale proseguimento della crescita economica, dovrebbero continuare ad andare bene. Anche qui stesso discorso, cioè che si è fatto prima per altre attività. Il grosso diciamo dei fuochi d'artificio sono venuti su questo tipo di attività. Adesso, da qui in avanti, così come le borse, potrebbero proseguire magari con un ritmo inferiore rispetto a quello che abbiamo visto da marzo ad oggi, ma dovrebbero proseguire. Però io farei ancora un appello sulla diversificazione e sul non esagerare, nel senso che paesi emergenti sì, vanno bene, possono essere nel portafoglio, però comunque sono una componente di rischio che vanno messa senza esagerare. Poi i paesi emergenti da qui in avanti dovrebbero continuare a far bene, sia perché fa bene la crescita economica, sia perché le loro valute sono in tendenziale apprezzamento e dovrebbero essere in tendenziale apprezzamento nei confronti dell'euro. Però come si apprezzano rapidamente, queste sono aree in cui la discesa... Però comunque sono attività che storicamente hanno una volatilità molto elevata, sono attività da considerarsi tra quelle di rischio, e quindi comunque non esagerare, diversificare all'interno degli emittenti, all'interno all'interno dei paesi, quindi fatto in maniera oculata. Mm-hmm. Ecco, questo sempre da non dimenticare assolutamente mai. C'è Fabio che ci sta scrivendo, no, Conti, questa la leggo a lei perché noi di questo argomento stavamo discutendo proprio poco prima dell'inizio della trasmissione. Date pure consigli, tanto la Consob dorme e normalmente figurarsi a fine anno. Altro che invece sanziona pesantemente, Conti, la Consob per chi non si comporta tra gli operatori del settore in maniera corretta. Giusto? Non vuole intervenire su questa... quest'anno, quest'anno che, sono state commissionate... Esatto. Non fanno molto clamore queste notizie, ma di sanzioni. Per attività considerate di informazioni privilegiate. Infatti, quindi no, Fabio... Nei mesi scorsi, un paio di mesi fa, è stato ampiamente riportato dalla stampa di forti sanzioni combinate per utilizzo di informazioni privilegiate. Esatto. Allora, benissimo, quindi anche queste cose vanno precisate. Dunque, ci dobbiamo fermare, abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi abbiamo Massimo da Firenze, abbiamo Marco da Roma, abbiamo anche da commentare così un po' le prospettive sul settore delle utilities, e su questo sentirò Carcaterra tra poco. E allora tra poco. Salva Danaio. Allora, eccoci ritrovati in diretta. Noi questa mattina stiamo rifacendo un punto di fine anno del mercato, ma chiaramente gli ascoltatori quello che è successo quest'anno lo hanno sentito in lungo e largo, forse sono anche stanchi, di conseguenza si preferisce fare esattamente come fa il mercato, guardare in avanti e cercare di capire dove poter puntare l'anno prossimo. Volevo rispondere a quegli ascoltatori, ci stanno sia scrivendo che telefonando, che chiedono che fine hanno fatto i bond argentini. Allora, io credo che Radio 24 sia stata praticamente forse l'unica radio di sicuro, l'unico mezzo di informazione radio televisiva di sicuro, qualche giornale ancora ci torna sull'argomento, che continua ad occuparsi periodicamente del tema delle obbligazioni argentine. Allora, abbiamo avuto appena 10 giorni fa ospite Nicola Stock, che è il presidente della TFA, della Task Force Argentina, che ci ha fatto il punto della situazione sul ricorso all'ICSI da questo tribunale istituito presso la Banca Mondiale a Washington. Insomma, noi ci ritorniamo puntualmente, novità non ce ne sono, a parte il fatto che c'è questa prospettiva che l'Argentina riapra questo famoso swap del 2005, quindi riapra la possibilità per coloro che non hanno aderito a quel famoso scambio e riapra loro appunto l'opportunità di aderire adesso, con condizioni che non sono molto migliorate rispetto alla prima proposta fatta. Noi continueremo a monitorare, abbiate pazienza, ma davvero lo facciamo quando ci sono delle novità da raccontare, perché farlo così solamente per un puro esercizio di informazione, se non c'è tripa per gatti, non ci sembra utile. Per cui continuate a seguirci, e qualora vi interessasse andate a recuperare magari la trasmissione con Nicola Stock di qualche giorno fa sul sito di Radio 24. Armando Carcaterra, le utilities le piacciono, oppure insomma questo è un settore da tenere relativamente in considerazione per questo 2010? Accontentiamo l'ascoltatore che ci ha chiamato prima, ovviamente sì, senza menzionare i titoli, perché non lo facciamo generalmente. Diciamo, immaginando un 2010 più tranquillo da un punto di vista dei rendimenti azionari, appunto, cioè non immaginando recuperi ulteriori così elevati come quelli visti da marzo ad oggi, penso che le utilities possano rientrare a maggior ragione fra titoli interessanti, proprio anche per alcuni aspetti menzionati prima, cioè il fatto che si tratti di titoli comunque che godono di regimi perlomeno oligopolistici, che hanno un pricing abbastanza stabile, hanno dei dividendi elevati, quindi diciamo in un ambito di ritorni moderati sulle azioni potrebbero a maggior ragione essere riconsiderati, proprio anche per una minore rischiosità, che poi in realtà proprio questo aspetto invece è stato messo in discussione per il fatto che le utilities in realtà nella crisi dei mercati hanno fatto male, non proprio come chiaramente i titoli peggiori o i bancari, però insomma sono scesi del 50% anche loro, e in realtà hanno recuperato molto poco fino adesso. Hanno recuperato poco fino adesso perché in realtà l'attenzione degli investitori si è buttata e si è rivolta tutta soprattutto ai titoli ciclici piuttosto che ai finanziari, che erano quelli che avevano perso di più prima, per cui questi titoli in realtà sono rimasti molto indietro. Allora, avendo in mente uno scenario un po' più tranquillo, è probabile che l'attenzione si possa anche spostare su un settore un po' più difensivo, che quindi diciamo la fase di ripresa del settore degli utilities possa continuare, per cui può essere anche una buona idea per l'anno prossimo. Per l'anno prossimo, poi magari ci date anche qualche altra indicazione su come potrebbero essere le tendenze di altri settori. Sentirei Marco da Roma perché vuole tornare sui mercati emergenti. Marco. Buongiorno e complimenti per il programma. Grazie Marco. La mia considerazione è questa: per un portafoglio 2010 il mio orientamento era sui mercati emergenti perché già lo sono all'interno nel 2009 e ho avuto ottime soddisfazioni. Su quali mercati emergenti puntare e per quanto riguarda le commodity, quali gli esperti ritengono interessanti in considerazione della crescita dei mercati emergenti? Io non sono molto d'accordo sulla non crescita della Russia. Perché se il petrolio sale, se c'è richiesta di materiali di base, presumo che la Russia sia come maggiore nazione proprio per le materie prime, per cui per i mercati emergenti, per una crescita della nazione stessa. Tenga conto che la piazza di Mosca è stata tra le piazze che quest'anno ha portato a casa un più 107%, è una delle piazze che ha portato a casa un rialzo a tre cifre, per cui voglio dire adesso, per quanto ancora possa crescere questo mercato dal punto di vista azionario, si dovrà pure un pochino rasserenare. Allora, siccome Andrea Conti sul tema dei mercati emergenti ha già detto la sua, e lo faccio riflettere per un secondo sulle materie prime, che dobbiamo per forza rilegare di nuovo alla crescita dei mercati emergenti, allora torno per un attimo ad Armando Carcaterra, visto che lui sulle aree emergenti non l'ho sentito, quindi c'è qualche area che lei sovrappeserebbe nel suo portafoglio in questo momento in vista di un'ulteriore crescita per il 2010, oppure il portafoglio insomma che avete già predisposto rimane immodificabile? Beh, le idee si valutano tutti i giorni, per cui no, per quello che riguarda i mercati emergenti io farei un discorso appunto ancora generale, ricollegandomi a quello che dicevo prima, e cioè quello che ci aspettiamo per l'anno prossimo è una continuazione della, diciamo, di questa difficile fase di ripresa che in realtà per i mercati emergenti invece è un po' più decisamente più brillante. Questo cosa significa? Che appunto l'anno prossimo vediamo i mercati, diciamo, comportarsi in maniera più moderata, come dicevo prima, più in linea con quelli che sono i tassi di crescita attesi. Questo vuol dire che evidentemente le economie emergenti mostrano tassi di crescita superiori, quindi potrebbero continuare anche a fare un po' meglio degli altri mercati, pur tenendo conto che ormai sono mercati che trattano, diciamo, a valutazione ormai pari a quelle dei mercati sviluppati, quindi diciamo prendiamo anche atto di questo fatto che è un fatto nuovo, cioè lo sconto a cui trattavano normalmente non c'è praticamente più. Questo può essere un fattore strutturale permanente, potrebbe non esserlo, insomma dobbiamo credere anche in questo per continuare ad essere positivi sui mercati emergenti. Quindi diciamo, se le cose procedono normalmente con questa fase di ripresa e con la maggior crescita dei paesi emergenti, i paesi emergenti possono continuare a fare un po' meglio degli altri. Da questo punto di vista qui cioè, i singoli paesi, anche qui poi parliamo di paesi emergenti, comunque di mercati più difficilmente affrontabili uno per uno, per cui sono sempre d'accordo anche io sul consiglio della diversificazione, tenendo conto che ci sono buone prospettive di crescita sia in paesi dell'America Latina, sia nei paesi asiatici, la Russia possibilmente, diciamo, sono d'accordo sulla questione del prezzo del petrolio, eccetera, e quindi può riprendersi anch'essa. Quindi diciamo avere esposizione ad un prodotto, ad un fondo che investe in tutti i paesi emergenti comunque va bene, perché significa esporsi a tante aree su molte delle quali continuano ad esserci delle buone prospettive, per cui non ne farei una questione di singoli paesi, anche perché comunque diventa poi molto più complicato anche poterci effettivamente investire e comunque, diciamo, perché aumentare il rischio così idiosincratico appunto di andare a scegliere uno o due paesi che comunque sia, diciamo, sono rappresentati da mercati che comunque rimangono evidentemente volatili. Quindi. Allora, a proposito di mercati volatili, la volatilità riguarda anche il mercato delle materie prime, le commodities, le chiamiamo così in inglese. Il 2009 è stato l'anno del record del prezzo dell'oro, oltre $1,100 l'oncia, e c'è qualche gestore che dice comunque attenzione ai metalli preziosi, perché questa spinta al rialzo che hanno avuta è stata trainata per lo più da speculazione puramente finanziaria, mentre le materie prime agricole crescono di più perché c'è una reale domanda di questo tipo di materie prime. Andrea, Andrea Conti, e quindi allora come le selezioniamo? Se volessimo cercare un prodotto di investimento che si lega alle materie prime, secondo lei il 2010 sarà l'anno di quale settore? Di quelle con le quali qualche giorno fa un giornale indicava come le materie prime della colazione, quindi lo zucchero piuttosto che i cereali, c'era un'analisi molto divertente sulla stampa. Sì, la logica che sottende questa idea è effettivamente che il 2009 è stato un anno di ripresa di tipo, diciamo, infrastrutturale, 2010 con la ripresa che si consolida e quindi aumentano anche le condizioni di benessere nei paesi emergenti, quindi possono aumentare più i prezzi delle materie prime agricole, quindi quelli che vanno all'alimentazione e così via. D'altronde, se vediamo la classifica delle materie prime quest'anno, le materie prime industriali sono salite quasi del 90% dall'inizio anno, no? Quindi quelle sono quelle che alimentano le infrastrutture. Dopodiché viene l'energia, dove abbiamo detto il prezzo del petrolio è salito tanto, ma anche perché ci sono state delle scorte che sono state fatte a prezzi bassi. Tanto relativamente, perché tra 60 e 80 dollari è gravitato sempre intorno, mi ricordo male le quotazioni, no? Il petrolio era arrivato quasi a 40, sì. 80, quindi di fatto è... Anche io se mi ricordo sempre questo 150 dollari dell'anno scorso. È quasi raddoppiato. Qui diciamo che inevitabilmente se la crescita economica a livello globale si consolida, il prezzo del petrolio probabilmente un pochettino salirà, però diciamo che 80 dollari probabilmente in questo momento è considerato un prezzo che fa comodo a tutti, fa comodo ai produttori e ai consumatori. Un ritorno a 150 dollari, che era quello che aveva, diciamo, toccato al culmine del ciclo precedente, metà luglio del 2008. Aveva poi dato fastidio a molti, e quindi è stato anche, diciamo, causa e componente della forte rallentamento economico che c'è stato dopo. Quindi diciamo che il 2010, se è un anno di normalizzazione per la crescita economica, potrebbe vedere un riallineamento dei valori di quelli che sono rimasti indietro. Quindi ad esempio le commodity agricole che quest'anno sono rimaste un po' indietro, con un consolidamento della crescita che va anche ad aumentare appunto il benessere delle popolazioni dei paesi emergenti, potrebbe essersi. Però in un contesto in cui probabilmente c'è una minore dispersione generale tra i vari settori e tra le varie componenti, proprio perché probabilmente la forte fase di recupero c'è già stato. Adesso, con una crescita che si consolida, materie prime possono continuare a salire, ma magari in maniera meno impetuosa di quanto non abbiano fatto da marzo a alcuni mesi fa. Allora, ci sono due domande da scegliere, io ho un minuto e mezzo di tempo, non riesco ad accontentare i due ascoltatori. Allora, se voi mi passate, mi permettete, Massimo e Davide, io faccio la vostra domanda al posto vostro, così ottimizziamo un po' i tempi. Massimo voleva chiedere una delucidazione a proposito del settore bancario. Tutta questa ripresa di cui stiamo parlando non è reale, perché il settore bancario rimane ancora molto indietro. Carcaterra, la giro a lei se ce la facciamo a risolvere questa domanda, ma richiederebbe un'analisi di un'ora, in 30 secondi. È giusta l'osservazione, perché diciamo la crisi è nata lì, e quindi diciamo è lì che bisogna andare a guardare quanto l'aggiustamento stia effettivamente procedendo, e anche quindi da questo punto è giusto andare un po' a guardare e a selezionare per bene le cose. Sicuramente i rischi esistono ancora, forse qualche paese ha fatto qualcosa in più, credo che le istituzioni finanziarie americane abbiano aggiustato di più i bilanci di quanto non abbiano fatto quelle europee. Dopodiché però la situazione da un punto di vista dei mercati è simile, nel senso che quest'anno hanno fatto bene le banche legate ai mercati di investimento, piuttosto training, che le banche legate solamente all'attività caratteristica dei crediti, sulle quali appunto qualche dubbio ancora c'è relativamente alla qualità, appunto allo sviluppo, quindi degli accantonamenti sui crediti stessi. In generale, proprio per chiudere velocissimamente, sì, perché ho la sigla. L'epicentro è sempre poi nel real estate, e per cui diciamo bisognerà continuare a monitorare l'andamento del prezzo delle case, che è stato un po' alla base e che quindi ancora può incidere poi sulla qualità dei bilanci delle banche. Molto bene, molto chiaro. Armando Carcaterra, buon anno, buone feste, a presto. Grazie anche a voi. Anche a lei, Andrea Conti, grazie per essere stato con noi. Ci risentiamo magari in una prossima puntata di Salvadanaio nel 2010. Grazie a tutti, buon anno. Noi saremo insieme domattina con Soldi e Dintorni con Rossella Cadeo, domani a Salvadanaio il meglio di. Ci risentiamo il 4 gennaio, veramente, dalla redazione di Salvadanaio. Buon anno a tutti di cuore.